Alessandro Nannini di Copa Stataf, buonasera. Buonasera a voi, a tutti e a tutte. Allora, i trasporti, un tema, uno dei temi caldi visto il periodo. Come sono andati questi 2 mesi, anzi anche più di 2 mesi oramai? Quali sono i problemi ancora esistenti, per quanto riguarda il trasporto pubblico? Ma senti, i problemi è quello che, come si è sempre detto, è emerso durante questo periodo di chiusura e questo periodo, insomma, di Covid. Si è visto chiaramente che quello che è stato, come quello che è stato riguardando la sanità, quindi la privatizzazione, i soldi dati alle aziende private nella sanità, stessa cosa è avvenuta nelle aziende pubbliche e nelle aziende di trasporto, ha fatto sì che praticamente si è accorto come siamo arrivati al deficit e al collasso chiaro. Soprattutto anche nel trasporto, in quanto abbiamo avuto aziende che hanno, finché c'è stato da fare guadagno, prima della chiusura, diciamo, di tutto il servizio, hanno continuato per anni a fare utili piuttosto consistenti. Nel momento in cui hanno dovuto chiudere, quindi c'è stata riduzione di servizio, hanno visto bene di usare la cassa integrazione, o nel caso nostro dei trasporti c'è un fondo bilaterale, non integrare minimamente la parte salariale, il 20% che mancherebbe ai lavoratori, nonostante che a tutt'oggi la regione toscana e le altre regioni italiane hanno già detto che pagheranno i chilometri anche non fatti. E quindi praticamente si va a fare, queste stanno ugualmente riducendo il servizio, ancora in ATAF siamo a un servizio intorno al 65%, quando si capisce bene che i mezzi oggigiorno più di 23 persone massimo non possono andare di passeggeri sopra, l'ideale sarebbe 18 persone, si capisce bene che spesso e volentieri gli autobus viaggiano a scritta completo, perché più di quelle proprio per legge a questo punto non possono salire, quindi basterebbe a questo punto incrementare il servizio, in modo che più servizio, riportare il servizio anche se non è un servizio ora, le scuole sono chiuse, ma un servizio che fino all'anno scorso a questo punto era sempre un servizio scolastico, quindi un servizio di pieno invernale. Quindi adesso siamo ancora con oltre 300 turni, 250 turni in meno rispetto a quello che veniva fatto l'anno scorso. Nel prossimo futuro, sembra dalla prossima settimana, ci sia un ulteriore incremento, però per esempio fino alle 9:30 la sera. Adesso il servizio alle 8:30 finisce. Considerate che nonostante questo ci sono lavoratori ancora e sono tutti i giorni abbiamo un 150 circa lavoratori che sono al fondo in cassa integrazione. L'azienda però in questo momento ci sta risparmiando. Questa è la realtà dei fatti, come succede a Firenze e succede in tutta Italia. Ecco, fra l'altro questo denota anche il fatto che questo servizio pubblico, che poi pubblico non è come specificavi, era impostato non tanto sull'utenza cittadina, abitante di Firenze, mi sbaglio? Era più che altro adottato sul turismo, perché le linee principali sono quelle linee centrali, le linee periferiche, meno male, erano sempre tagliate. Vedi la parte campi, tutto, diciamo, la parte nord, diciamo, della spiaggia, ma la parte sud, generalmente sono le linee periferiche sono quelle, insomma, è più interessante le zone centrali. Questo era improntato in questa maniera, mancando il turismo e loro riescono a rifare, cioè non fanno servizio. A questo punto però, ripeto, il servizio andrebbe incrementato, una battaglia che faremo in questi giorni, nel prossimo tempo, è quello di chiedere l'incremento totale di servizio, c'è poco da fare, anche perché, ripeto, i chilometri vengono pagati. In questo momento le aziende hanno una perdita riferita alla vendita dei biglietti, ma parliamo del presupposto che questo è un servizio sociale, il trasporto, è un bene pubblico, è la mobilità dei cittadini. Fin quando ci hanno guadagnato non hanno mai dividito gli utili per incrementare il servizio, se lo sono messe nelle proprie casse, nei propri bilanci. Adesso che questi utili mancano, perché manca un 30% della bigliettazione che è il ricavo delle aziende, stanno piangendo e vanno a chiedere allo Stato i finanziamenti pubblici. Allora, se il finanziamento pubblico deve essere, sia sempre finanziamento pubblico, anche quando c'è il guadagno deve essere rimesso in pubblico allora. Se no si fa come qua, che ha fatto la Fiat, finché c'è da guadagnare e andare all'estero va all'estero, quando c'è poi da perdere chiede aiuto allo Stato, e qui sta, e il trasporto purtroppo vive in questa ottica di privatizzazione del privato, e ci deve essere solo il business di loro, non più un servizio per il cittadino e per l'utente. Ecco, questo per quanto riguarda appunto il servizio al cittadino, alla cittadina, ma invece per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, che aria tira? Si è in un certo senso svegliato qualcuno, c'è una presa di consapevolezza della situazione oppure no? Ma sai, la presa di consapevolezza è questa, purtroppo il lavoratore si accorge bene o male della situazione, a casa ha dovuto, per solidarietà che abbiamo avuto all'interno noi dell'azienda, mettere le nostre ferie, chi aveva ferie arretrate ha messo quelle a casa, in modo di che per fortuna siamo riusciti a tutt'oggi a reggere abbastanza bene il colpo economico, ripeto, la fortuna di tra virgolette del tranviere fiorentino e della gran parte degli italiani è che le aziende hanno anticipato l'80% della cassa, e quindi per fortuna, almeno su questo oso, i lavoratori dell'ASAF e delle altre aziende di trasporto, almeno quelle diciamo principali, non stanno aspettando i fondi dell'INPS come purtroppo succede all'80% dei lavoratori oggigiorno, che da marzo ancora non ha preso un euro. Ecco. Ecco, poi appunto la crisi economica legata al turismo, è probabile che non si vedrà più un turista in città, no, qualcuno c'è, però insomma sicuramente non questi afflussi di massa che abbiamo avuto fino a 3 mesi fa. Questo a tuo modo di vedere, a vostro modo di vedere, mette a rischio il lavoro e i contratti del personale ASAF? Ma ascolta, non si sa quello che succede da qui a settembre. È chiaro però che finché viaggiamo un'ottica su questa, che in cui la pandemia ancora non sappiamo bene quali sono i risvolti, non sappiamo bene quanto diciamo sarà chiusa questa faccenda qui, io credo che ancora a settembre, ottobre sarà il momento in cui ancora di più si dovrà stare attenta al distanziamento sociale e cose. È impensabile che gli autobus siano se ricominciano le scuole piene, bisognerà ugualmente incrementare il servizio. È qui che la battaglia dovrà essere forte tra lavoratori e cittadini, perché attenzione, perché si rischia che veramente qui c'è un incremento di servizio, ci deve essere un incremento di servizio, perché attualmente gli autobus, ripeto, più di 20 persone non li possono portare, se arriva a 23 massimo, e capite bene, un autobus ha una capienza di 60-70 persone, e a quel punto lì c'è è un terzo la capienza a questo punto. Cioè, nel periodo vuol dire ce ne vuole più, ci vuole molto più servizio, che un servizio non sarà remunerativo, perché è un servizio e più di tanto non viene portato, quindi la battaglia sarà proprio allora a quel punto lì dove dire che da dover mettere sul piatto un'avvertenza, quindi dire il servizio deve essere tornare allo scopo principale, quello della mobilità dei cittadini e delle cittadine in questo senso qui, a discapito diciamo del business, di guadagno. Anche per l'Europa abbiamo un'incognita grossa, a Firenze ma tutta Toscana. Chi gestirà a settembre questo servizio? Saranno gli attuali gestori o saranno gli ipotetici francesi che teoricamente avrebbero vinto la gara regionale? Perché ancora tutt'oggi questo non si sa, non sappiamo chi è. E capite bene che anche programmare un servizio da qui a settembre e capire come sarà il servizio è difficile anche a livello sindacale, a livello di lavoratori e anche a livello di cittadini, secondo me, a chi andare a chiedere il servizio, a chi si va, se ancora non si sa chi sono gli attuali padroni. Sì, bene, quindi dai, intanto il 30 sabato sarete in piazza insieme agli altri sindacati sabato di base. Sabato il 30 saremo insieme agli altri sindacati di base, insieme agli altri comitati, agli altri collettivi, ai centri sociali, è una prima importante diciamo giornata di mobilitazione e va proprio su questo, sulla base di questo, sulle privatizzazioni, non solo del trasporto, della sanità, sul reddito garantito, sul lavorare meno, cioè a questo punto è chiaro che il messaggio deve passare dopo questa, diciamo sciagura di coronavirus, è che il modello della vita deve cambiare, ma deve cambiare a favore dei partiti, dei cittadini, delle cittadine, non a favore di cambiare a favore di sempre soldi da fatti. Altrimenti non è un cambiamento, semplicemente. No, è soltanto spostare ancora più le risorse verso chi i soldi ce l'ha di già, purtroppo. Bene, allora ci vediamo direttamente sabato in piazza. Va bene, ciao a tutti e a tutte. Grazie ancora, buon lavoro. Ciao. Ciao.